E i diari dei rivoluzionari, come ad esempio il diario di Herzen, ci consegnano un uomo che nella sfera privata era completamente diverso da quell'austera figura intabarrata, perennemente vestita di nero, un po' polverosa, un po' da mezzo busto che siamo abituati a studiare nelle nostre scuole o il cui nome associamo alle strade che calpestiamo quotidianamente in tutte le città italiane, no? Dov'è che non c'è una via Mazzini o una piazza Mazzini? Mazzini suonava la chitarra, a un certo punto si è mantenuto dando lezioni di chitarra, cantava con la sua voce roca e profonda da suonatore di sigaro, non c'era un piccolo animale, un cane, un gatto, un uccellino che non provasse immediatamente un trasporto nei suoi confronti, e aveva... Liberava gli uccellini nelle stanze della casa. Viveva in una stanza circondato da uccellini liberi, ed è anche questo è un particolare storico vero che affiora in cronache del tempo. Nello stesso tempo Mazzini fu un legislatore mite nel brevissimo periodo nel quale gli fu concesso di governare durante i giorni gloriosi della Repubblica Romana. È un instancabile tessitore di trame che contemplavano un uso anche estremo della violenza. Tocchiamo subito allora quello che è un tema che evidentemente è di grande attualità per noi, cioè il concetto stesso di terrorismo. Come traccia lei la linea? Perché ci sono ovviamente la parola nasce a fine Settecento, primissimi anni dell'Ottocento, e era in uso nell'Ottocento, veniva usata forse anche più spesso per i governi e un po' meno